Vorrei dominare il mondo, trafogato di orgoglio, ubriaco fino in fondo, e fare un allegro giro tondo. Vorrei dominare la vita e nella mente sempre una meta, sollevando la mia bandiera e urlando al vento la mia vittoria. Ma sento che è un assoluto che non va bene per me. Sento che c'è qualcosa che vorrei donare a me. Na na na na na. Fosse giunto il momento di urlare al vento, il coraggio che ho dentro, sepolto dal cemento, di accettare un amore che sogno non è, ma forte come il vento adesso che mi spinge sulla cima del dosso. E sento che c'è qualcosa che vorrei donare anche a te. Sento che c'è qualcosa che vorrei donare anche a te. Na na na na na. C'è qualcosa che vorrei donare anche a te. Sento che c'è qualcosa che vorrei donare anche a te. Na na na. Na na na.